A bordo campo di Dario Ricci. Andiamo di corsa oggi a bordo campo perché nostra ospite è una record woman italiana. Sì, di corsa, però attenzione allo stile e alla tecnica, perché con la marcia non si scherza e non si corre soprattutto. Bisogna avere la giusta tecnica, ginocchio, piede, tallone, e adesso la nostra ospite ci spiegherà bene come fare, perché altrimenti è tutt'altro sport. Vero Eleonora Anna Giorgi, benvenuta a bordo campo. Sì, è vero, ciao a tutti, buongiorno. Allora, chi è Eleonora Giorgi? Beh, fresca primatista italiana di marcia donne sui 20 km, no? 1:27:05, dico bene, Eleonora? Confermo, giusto. Benissimo, 3 maggio a Taiwan, in Cina, in giusto? In Cina, sì, oh. In occasione della Coppa del Mondo. Oh, vedi che ho studiato oggi, meno male, sono preparato. Precedente primato di Elisabetta Perrone del 19 maggio del 2001, 1:27:09, quindi insomma era un primato parecchio longevo, Eleonora, eh? Sì, resisteva dal 2001, quindi sono molto contenta soprattutto di aver battuto dei nomi storici della marcia italiana, donne che appunto hanno fatto la storia e hanno preso anche tante medaglie in competizioni internazionali. Insomma, quindi ti sei iscritta subito alla grande in un albo d'oro prestigioso milanese, classe 1989, appena 163 centimetri, ma direi tutta energia condensata, no Eleonora? Permettimi la battuta. Sì, nella botte piccola c'è il vino buono. E anche la marciatrice di alto livello. Senti, ma come hai scoperto la marcia, che ha una grandissima tradizione, no? In ambito italiano, anche al femminile, perché diciamo Perrone, Rigauto, Sidoti, grandissime campionesse, però insomma magari non è proprio lo sport che viene subito in mente per una ragazza. Sì, io ho cominciato diciamo, nell'atletica correndo, facendo le campestri con le scuole medie, quindi l'atletica è sempre stato il mio grande amore. E poi nella sfortuna, perché ho avuto un infortunio, una tendinite, ho però trovato insomma, la mia fortuna, perché a causa di questa tendinite ho cominciato a marciare nel 2007, quindi è da pochi anni che ho iniziato a marciare, e all'inizio non mi piaceva tanto, è diventata un po' una sfida con me stessa, e arrivavo anche ultima, poi piano piano ho cominciato a migliorarmi fino a partecipare alle Olimpiadi nel 2012. Nel 2013 ho vinto i Giochi del Mediterraneo e appunto sono andata quest'anno al record italiano nella 20 km. 14esima a Londra, niente male, sì, come prima Olimpiadi, sì, esatto, insomma, sì, diciamolo, perché già sfiorare il gota del meglio mondiale non è certo male come esordio olimpico. Senti, ma toglimi una curiosità, ma ogni tanto non ti viene ancora la voglia di correre? Perché io vedo c'è una disciplina in quel gesto che fate, in quella impossibilità di sollevare contemporaneamente i due piedi, perché ti viene proprio di dire, ma adesso questi 100 metri me li faccio di corsa, chi si è visto, dai. No, beh, qualche volta infatti corro ancora, perché la corsa mi piace sempre, però in gara cerco, non si può correre, anche perché ci sono i giudici che ci controllano, quindi è nostro rischio e pericolo, perché poi se veniamo squalificati non finiamo la gara. Sì, non è proprio bello. E senti, qual è proprio la postura giusta tecnicamente? Cosa va appoggiato prima sull'asfalto, il tallone? Allora, il tallone, sì, diciamo che è la disciplina del tacco e punta. Tacco e punta, appunto. Sì. Quindi tallone, poi si fa la rullata con il piede, è una specie di camminata molto veloce utilizzando le anche. Quindi insomma voi lavorate molto sullo specifico, anche sulla tecnica? Cioè fate degli allenamenti mirati proprio sulla tecnica? Sì, facciamo degli esercizi di mobilità articolare per le anche, facciamo esercizi di tecnica per le braccia, esercizi un po' strani da vedere da fuori, però che servono appunto per migliorare la tecnica quando poi si va più veloce. Quindi in modo che possiate tenere il gesto tecnico sotto controllo anche in velocità, diciamo. Sì, per un'ora e mezza circa. Dimmi poco, io già sudo solo all'idea. Senti, a proposito di sudore, c'è anche quello che fai sui libri, no? Perché so che sei laureanda alla Bocconi di sì, Milano. Esatto, mio mancano due esami e vorrei laurearmi nel 2014. Quindi... La laurea triennale è già in cantiere, adesso mi sto laureando una specialistica. Economia aziendale e management, no? Vero la prima? Sì, esatto. E ora sto economia delle pubbliche amministrazioni, istituzioni internazionali. Beh, insomma, niente di troppo facile, direi ami le sfide e tra l'altro questo status di universitaria ti permette anche di essere un po' la testimonial d'eccezione tra i partecipanti di quelli che sono i campionati nazionali universitari che si stanno svolgendo qui a Milano fino al 25 maggio. Direi bella iniziativa, migliaia di studenti atleti da tutta Italia a dare ancora più vitalità allo sport milanese, no? Ah, sì, sicuramente è una bellissima iniziativa, sono onorata di rappresentare il CUS Milano e appunto adesso cominceranno le gare, è una specie di Olimpiade per gli studenti perché ci sono tutti gli sport e saranno qui a Milano e vabbè, vorrei ricordarvi appunto che l'atletica sarà il 24-25 maggio all'Arena Civica di Milano in notturna, quindi se volete fare un salto, fare il tifo... Sicuramente sarà una bellissima esperienza. L'arena è la casa dell'atletica, infatti. Dai. Facciamola anche rivivere per quella che è per la casa della grande atletica milanese, e anzi, lo rivorremmo proprio quel meeting. Cogliere l'occasione per lanciare un appello. Anche insomma, ci veniamo volentieri a prenderci un po' di zanzare se ci siete voi atleti all'arena. Infatti abbiamo fatto i campionati italiani di atletica e siamo stati mangiati dalle zanzare. Vabbè, però è un sacrificio che facciamo per l'atletica a Milano. Sì. Senti, è difficile conciliare studi e attività professionistica ad alto livello? Come riesci a organizzarti? Allora, è difficile, però io dico sempre a tutti che non è impossibile, perché basta organizzarsi. Certo, bisogna fare qualche sacrificio, perché non tutto è semplice, però poi questi sacrifici vengono ampiamente ripagati, e bisogna sapersi organizzare, naturalmente non si può far tutto, si focalizza su se devo andare a lezione, mi organizzo con l'allenatore, poi vado ad allenarmi, poi torno in università, quindi non è facile ma ce l'ho quasi fatta, ce l'ho quasi finita. Ecco, anche in quel caso siamo addirittura d'arrivo in vista del traguardo finale, però ecco, per esempio, tu preferisci studiare la sera, la mattina, oppure riesci anche ad adeguare il bioritmo in base alla giornata? Dipende dalla giornata, perché a volte quando sono sotto esame studio anche sul pullman, studio di giorno, studio in ogni ritaglio di tempo. Magari mentre marci ripeti, no? Mentalmente, dai. Ci provo, però non è facile, perché poi sto concentrata sulla marcia, però vabbè, diciamo che fare entrambe le cose mi aiuta, così non penso... non mi focalizzo solo su una cosa. Senti, ma i professori chiedono l'autografo riconoscendoti come campionessa, oppure magari proprio perché fai atletica sono ancora più severi? No, alcuni non lo sanno che faccio atletica, altri invece perché poi ogni corso ha il suo professore però l'autografo non ho ancora fatto. giusto sulla... Sono in incognita. Ecco, giusto la firma sullo statino una volta che ti danno esatto. Il voto. Ecco, vabbè, quello è l'autografo che conta, insomma. Quest'anno però ci sono anche, oltre ai campionati nazionali universitari di cui abbiamo detto, ci sono anche però gli europei a Zurigo, proprio il 14 agosto, direi che è data da non mancare, eh? Sì, esatto, poi gli europei, appunto, sarà oltre alla Coppa del Mondo, è la gara a cui punto in questo 2014 e diciamo che le posizioni di vertice si avvicinano, quindi mi farebbe piacere fare una bella gara e lottare con le ragazze in testa. Mi è piaciuta molto la dedica che hai fatto di questo tuo record italiano, lo ricordiamo, 1:27,5 sui 20 chilometri ad Anna Rita Sidoti, grandissima campionessa della nostra marcia che è impegnata in tutt'altra gara in questo periodo. Sì, io ho voluto dedicare questa gara appunto ad Anna Rita Sidoti, ma anche a tutte le donne che ogni giorno combattono la gara più importante della loro vita contro una terribile malattia, quindi ho voluto dedicarla a loro. Beh, insomma, direi che non c'è solo tanta forza e tanta marcia nei passi che stai compiendo. Eleonora Giorgi, allora, intanto grazie per essere stata nostra ospite oggi a bordo campo. In bocca grazie, al lupo. Grazie e a voi. Allora, facciamo gli scongiuri. Magari sarebbe bello poterti riospitare con qualche altra medagliuccia al collo. Dai, lo accetti, speriamo. Questo in bocca crepi al lupo? Lupo. Sì, crepi il lupo e allora ci sentiamo presto. A prestissimo, sì. Allora. Grazie ancora e buona marcia. Grazie. Grazie a Eleonora Giorgi per essere stata nostra ospite. Vi ricordo tutte le informazioni sui campionati nazionali universitari sul sito cnumilano2014.it. Tra l'altro, fino al 25 maggio ci sono anche tante serate gratuite di intrattenimento aperte proprio agli universitari. A bordo campo. La prima volta che ebbi occasione, nella mia adolescenza, di assistere a una corsa ciclistica, più della gara mi attirò lo spettacolo del gruppo di testa formato da 15 o 20 corridori, che fluiva compatto, simile a un volo di uccelli o al transito dei pesci quando si spostano in branco. Notai che i ciclisti procedevano sincronizzati nel passo e tutti equidistanti tra di loro, a pochi centimetri l'uno dall'altro, quel tanto che bastava perché non avessero ad urtarsi e a rovinare in una caduta collettiva. Ma da quel gruppo finì con lo staccarsi un corridore che, dimenandosi freneticamente sulla sella, si allontanò verso il traguardo, dove giunse fra due siepi di acclamatori. Parole splendide, straordinarie, direi quasi un monumento al ciclismo. Queste scritte da Piero Chiara, uno dei più grandi giornalisti, scrittori, romanzieri italiani, in un articolo del 3 novembre 1969 dedicato proprio alla passione che Chiara aveva per il ciclismo e, come scopriremo oggi a bordo campo, anche per il Giro d'Italia. E proprio al Giro vogliamo dedicare oggi questa parte di A Bordo Campo, seguendo le tracce lasciate per questa passione per il ciclismo e per le due ruote proprio da uno dei più grandi intellettuali italiani. Lo facciamo con le sue parole contenute nel Lo Zanzi, il Binda e altre storie su due ruote, scritti sul ciclismo 1969-1985, scritti di Piero Chiara, raccolti appunto nel volume pubblicato da Nomos Edizioni e curato da Alberto Brambilla, che è nostro ospite oggi a bordo campo. Benvenuto, dottor Brambilla. Buongiorno. Allora, dottor Brambilla, siamo partiti subito alla grande con questa straordinaria descrizione che Piero Chiara fa di questa fantastica volata in questo articolo, e parole da cui emergono un amore sincero e intenso per le due ruote, vero? Sì, Piero Chiara in effetti dimostra qui altrove un rapporto, direi, molto, molto forte con il ciclismo, soprattutto un rapporto, direi, sentimentale, molto legato tra l'altro anche alla sua terra e, come potremo vedere magari più avanti, con il ricordo di Binda. Beh, apposta, entriamo subito in quello che è l'orizzonte geografico di Chiara, perché viene da una terra di grandissimi campioni, Alfredo Binda, 5 Giri d'Italia e 3 campionati del mondo nel palmarès di uno dei delle più grandi stelle del nostro ciclismo, ma anche quel Ganna che fu vincitore della prima edizione del Giro. Sì, direi proprio che Chiara si pone, come dire, al vertice di un triangolo magico per quanto riguarda il ciclismo varesino, appunto, come lei ha ben detto, con Binda, Ganna e poi con tanti altri campioni, fino ad arrivare a Basso, che attualmente ancora milita nel ciclismo odierno. Sì, il grande Ivan Basso, amico di Radio 24, appassionato di ciclismo e anche come cronista coinvolto nel racconto delle vicende del Giro, no? Non avrebbe potuto essere altrimenti. Scrive sempre Piero Chiara nella raccolta che lei ha curato: generazioni di ciclisti, e leggo da un articolo del 1983, hanno giocato la loro carriera sportiva sul giro, toccando le vette della celebrità o contentandosi d'essere gregari, peones nella grande arena che ha consumato le speranze di tanti aspiranti alla gloria, venuti dalle campagne o dagli apprendistati più vari. Perché il ciclismo è la sagra degli umili, se non dei poveri, l'unica possibilità di trionfo per i giovani di paese. Beh, qua c'è proprio quasi tutta l'epopea delle due ruote italiche, mi viene da dire, no Brambilla? Sì, è vero. Chiara pensa ancora all'inizio degli anni Ottanta al ciclismo proprio come fatica, come strumento di crescita personale e soprattutto la possibilità di cambiare proprio uno status sociale attraverso la fatica, attraverso le imprese ciclistiche. Anche qui direi che in filigrana c'è un po' il ricordo di Binda, il quale ha dovuto emigrare, appartenente a una famiglia povera, ha dovuto emigrare in Francia per lavorare come umile manovale, poi come stuccatore, ed è in Francia che è riuscito ad emergere, a trovare degli sponsor, a iniziare a gareggiare, da lì la fama e il ritorno in Italia. Però direi appunto Chiara ha in mente ancora quest'idea adesso un po' credo tramontata, ma allora viva del ciclismo, un po' come era stato in passato del pugilato, come sport capace di cambiare la vita di una persona a livello anche sociale. Fu cronista dal vivo di alcune tappe di uno dei giri forse più celebri della storia, l'edizione 1969 vinta da Gimondi su Michelotto e Ziglioli, ma che è passata appunto alla storia come l'edizione della squalifica per doping del cannibale Eddy Merckx, vero? Sì, come noto dopo la tappa di Savona Eddy Merckx fu trovato positivo, Eddy Merckx naturalmente il più titolato corridore di tutti i tempi, e naturalmente quello fu un episodio che travolse il giro e effettivamente creò scompiglio sia negli addetti ai lavori, incapaci di pensare a un atto così direi sconsiderato da parte del ciclista fiammingo, ma anche direi incominciò a dare un duro colpo anche ai tifosi, agli appassionati in genere, incominciando appunto a iniettare questa sorta di morbo del doping, o almeno l'ombra, il sospetto all'interno del giro. Eh sì, fu un momento in cui forse quell'idillio, quel legame cominciò a rompersi, no? Questo sogno di incredulità che aleggiava intorno alle fatiche di questi grandi campioni. E dire che un anno prima invece Piero Chiara aveva raccontato il giro in tutt'altro modo, un modo che devo dire nel leggerlo dalle pagine che lei ha curato mi è sembrato straordinariamente geniale, mi conceda questa formula così particolare, perché lo aveva raccontato in televisione ricorrendo a un fantasma. Sì, ricorrendo a un fantasma, appunto allo Zanzi. In effetti questa è una storia che ho ricostruito credo per la prima volta. Sostanzialmente nel Giro d'Italia del 1968 Piero Chiara, che allora era uno direi degli scrittori più importanti, capaci di produrre bestseller a tutto spiano, viene invitato a introdurre in qualche modo il Giro d'Italia, quindi dopo il telegiornale delle 13 ha qualche minuto per appunto preannunciare e cercare di divinare in qualche modo quello che potrebbe essere il prosieguo della corsa. Lui avrebbe dovuto parlare solo qualche minuto in attesa del collegamento con il compianto Paolo Fraiese, che allora sì, in motocicletta seguiva direttamente i corridori. In attesa appunto di questo collegamento incominciò a parlare, lui che non era un grande esperto di ciclismo, però incominciò a parlare di campioni, di gregari, evocando la figura di un amico che era appunto questo Zanzi. Naturalmente era una sorta di colloquio metafisico, perché la maggior parte, se non tutti, i telespettatori non conoscevano questo Zanzi, e quindi si immaginava che fosse una sorta di coup de théâtre di Chiara per tirare avanti, diciamo, la trasmissione. Certo, c'era però poi il fatto che questo Augusto Zanzi, personaggio metafisico, spesso dava dei pronostici indovinando esattamente quasi l'ordine d'arrivo e il vincitore della tappa del giorno dopo. Sì, certo, questo è l'aspetto appunto più curioso, che incominciò in qualche modo a insospettire gli addetti ai lavori, che pensarono che Chiara avesse un collegamento, magari lì nello studio televisivo ci fosse qualche esperto che gli suggerisse qualche diavoleria, i risultati, qualche diavoleria, qualcosa del genere. In realtà si trattava invece di una persona in carne ed ossa, come appunto qui, con davvero un coup de théâtre incredibile, nell'ultima puntata svelò Piero Chiara. Eh sì, invitando in studio Augusto Zanzi, che era stato modesto ma orgoglioso ciclista degli anni 20 e 30 della sua zona, del Varesino, e invitandolo in studio, ed eccolo lì che allora tutta Italia poté riconoscere quello che era l'autore di questi prodigiosi pronostici spesso azzeccati. Bene, trovate queste e tante altre storie di amore e passione per il ciclismo in Lo Zanzi, il Binda e altre storie su due ruote, scritti sul ciclismo di Piero Chiara, 1969-1985, Nomos Edizioni, testo curato da Alberto Brambilla. Beh, dottor Brambilla, salutandola e ringraziandola rapidissimamente, un suo pronostico su questo Giro d'Italia, chi lo vince? Ma non mi voglio pronunciare, perché non ho uno Zanzi al mio fianco, e quindi non so. Io spero in un italiano, perché il ciclismo italiano ha bisogno di ritrovare un campione. E allora lo speriamo davvero, e grazie per essere stato nostro ospite, e grazie anche per questo libretto davvero prezioso. Grazie a voi. Anche per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito radio24.it, scaricare sempre dal sito il nostro podcast e scriverci alla mail abordocampo@radio24.it. Ora spazio a tutti i convocati weekend. A Bordo Campo torna come sempre domenica prossima alle 16.30 e in replica il sabato mattina alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.